Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Un mondo dentro i balloon, Fumetti a Sinistra, che riprende un personaggio, un eroe della redazione del Pioniere, già citato in una trasmissione precedente dalla Paola Palottino, massima esperta nel mondo dell'illustrazione. E questo eroe citato è Giulia Maffai, una matita al femminile che ha avuto un ruolo rilevante all'interno della redazione del giornalino Fumetti di Gianni Rodari, e che poi ha proseguito la sua carriera da allora, giovane ragazzo uscito dall'Accademia, per entrare nel mondo più grande dell'arte, con anche esposizioni. Ancora oggi, nonostante sia classe 1930, ha questa attività di artista, di espositrice, una persona ancora di grande vitalità, che Morena Moretti ha raggiunto e intervistato per la nostra trasmissione. La seconda parte invece della puntata sarà dedicata al tradizionalissimo ormai e imprescindibile festival del Billboard Bull, con questa rassegna in particolare dedicata al grande Jacobitti. Quindi un momento musicale, poi entriamo nel menù della giornata. Le nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, le lampi di uragani, e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità. Prigioniere in un atelier, le ragazze nei metro hanno sguardi lontani e mani fragili, quale amore le fermerà, cuori d'attesa nell'oscurità. Morena Moretti ha raggiunto e intervistato Giulia Maffai per la nostra trasmissione. Giulia, Silvia Maffai. Lei ha lavorato come illustratrice al Pioniere dagli anni 50, dal primo numero dall'inizio, con Gianni Rodari. Questa esperienza nasce per quali ragioni? Come nasce questa esperienza? Allora, incominciamo a dire che a quell'epoca i ragazzi, i giovani, io avevo appena 20 anni, magari ne avevo pochi di più, eravamo molto legati soprattutto dalla nostra ideologia, dal nostro modo di vedere il mondo, quindi eravamo tutti quelli che oggi si direbbero di sinistra, in realtà eravamo dei giovani comunisti. Io poi venivo da un'esperienza artistica, perché sono figlia di artisti, poi ho fatto liceo artistico e mi stavo diplomando al Centro Sperimentale di Cinematografia come costumista e scenografa. Quindi in realtà adesso si chiama illustratore. A quell'epoca, non so, la Giulia disegna bene, facci la cortesia, facci tre disegnetti, e da lì praticamente è partita. Il rapporto con Gianni Rodari era nato, mi sembra, adesso io con le date, se non è che ricordo molto bene, se era contemporaneo oppure se è stato prima o se è stato dopo. Io ho incontrato Gianni perché scrisse il testo di una commedia con la regia di Marcello Fastrelli, che poi fu data al Teatro La Fenice di Genova e della quale io feci i costumi e le scenografie. Quindi, come vede, erano un po', come dire, dei canali che si intersecavano, ecco. E quando Gianni ebbe idea di questo giornale per ragazzi, che mancava completamente diciamo nel panorama culturale italiano, fu molto carino a chiedere, assieme ad altri collaboratori molto più abili, molto più bravi di me, di darmi questa possibilità di fare dei fumetti, e inventammo insieme questo personaggio e praticamente tutte le settimane, se non di quale personaggio si occupava? Ma era, se non mi sbaglio, era una cosa che avevamo, credo che avesse trovato Gianni su un giornale per bambini francesi, che era la storia di un elefantino, se non mi sbaglio, ma non era tanto, erano tre strisce settimanali, non era una cosa, mi ricordo in fondo pagina, mi ricordo queste tre strisce che io disegnavo e facevo anche. Eravamo molto pionieri nel vero senso della parola, perché facevamo tutto da soli praticamente, quindi anche il testo, anche i testi erano suoi o erano di Rodari, erano fatti in c'era questa totale naitite, voglio dire, questo, eravamo soli, quindi ci imboccavamo le mani e facevamo tutto, battevamo a macchina, disegnavamo, andavamo alla posta a mettere il mestre, insomma, eravamo proprio quattro gatti, oltretutto senza una lira, quindi insomma, e facevamo tutti facevamo tutto, ecco, era questo, era un vero collettivo nel senso della parola, ecco. Quindi questa serie che faceva lei, questa dell'elefantino, si ricorda di cosa trattava? Cioè era animali, sì. Animali, ma dedicata tipo a bambini piccoli, adolescenti? Sì, no, credo che fossero bambini intorno, il mio settore era, credo non c'era mai identificato, però mi rivolgeva a bambini verso i 5-6 anni, ecco, questo era il bambini piccoli, poi invece c'erano le altre cose che erano già più sviluppate anche da un punto di vista di educazione, voglio dire. Io ero in un mondo infantile. Ecco, dell'educazione quindi legata, relativa proprio all'infanzia e la prima adolescenza. Che cosa ricorda? Qual era l'obiettivo, il senso, lo scopo di questo giornalino rispetto proprio alla formazione dei ragazzi? Io credo che, forse, non lo so, posso anche sbagliare naturalmente, anche perché non è che noi ci mettevamo a tavolino con dei programmi, ecco, eravamo molto molto sciolti, eravamo un po' dei cani sciolti senza collare, e ci scambiavamo le nostre idee. Gianni poteva avere un'idea, io poteva avere un'altra, Bert ne poteva avere un'altra, insomma, quindi era veramente a questo punto di vista. Quello del mio settore, perché dico, parlando dei bambini più piccoli, e poi è stato sempre un po' parte della mia idole, sempre molto legato alla natura, alle piante, alle piante, i boschi, gli animali, ecco, questo mondo molto, molto nice, molto, molto naturale, ecco, non era quindi un'idea, non c'avevamo l'ideologia proprio, l'ideologia forse poteva nascere nei fumetti, le vestisce dedicate ai bambini più grandi, allora c'era ovviamente Gianni con la sua straordinaria umanità e anche con il suo straordinario modo di riuscire a parlare con i bambini, insomma, secondo me rimane ancora tra i più grandi dopo Collodi, scrittori per l'infanzia, non ce ne sono dubbi, insomma. Serpenti né di germi, ma i rotondi pachidermi mi farà brividi. Non son tipo da svenire né da farmi intimorire, ma vedermi comparire i rosi elefanti mi fa mal, tanto mal. Mandali via, mandali via, quale orror, che terror, i rosi elefanti no. Salvatemi, salvatemi, salvatemi. Mi fai? Che ricordo di Rodari? Guardi, siamo stati molto amici e non abbiamo mai, che io ricordi, non dico litigato, ma nemmeno delle sgarberie. Era una persona veramente dolcissima di carattere, veramente dolcissima di carattere, anche se aveva questa punta, diciamo, di malizia, non so come descriverla, che poi lui metteva soltanto nelle sue tirastrocche, nelle sue poesie, per criticare il mondo dei ricchi, il mondo dei potenti, il mondo dei prepotenti, il mondo no, tra virgolette. E tanto è vero che lui fu talmente carino che mi fece il suo primo libro, me lo fece illustrare a me, e poi sa com'è la vita, poi le cose non sono proseguite per tante ragioni, io mi sono... Quindi qual è il libro di cui parla Giulia, il primo libro di Rodari? Il libro delle tirastrocche. Perfetto. Se non mi sbaglio, in copertina dovrebbe esserci un grosso uccello, una specie di pulcino, ecco. Avevamo un occhio anche con la letteratura, che era difficile in quel momento, che veniva da fuori, ogni tanto ci arrivavano dei giornali dall'Inghilterra o dalla Francia, e noi c'eravamo stati per involontariamente, la nostra cultura era così limitata, così fascista, tra virgolette. veramente fascista proprio nel senso di chiusura. Mi ricordo che arrivavano questi giornali da fuori e per noi era proprio, erano proprio delle finestre che si spalancavano, anche nella, mi ricordo anche nel disegno dell'illustrazione, era veramente un mondo nuovo, insomma, non c'è nessun dubbio. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. A womp bum a loom bump a lump bum bum. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. What you doing to me? To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Oh, womp, bam, loom, mop, lop, bam, boom. E questa è la prima parte dell'intervista che Morena Moretti ha registrato con Giulia Maffai, ricordando i tempi del Pioniere e ricordando come la redazione del giornalino di Rodari, ma direi tutta l'Italia, venne sconvolta da questa modernità che, rotta la cappa del fascismo, tra virgolette, si abbatté sul nostro paese non solo con i fumetti americani, ma anche con musiche, per l'appunto, del rock and roll. Una modernità americanista che non è che fu del tutto ben accetta da parte della sinistra italiana, in particolare dell'allora Partito Comunista Italiano, in quanto appunto proveniente dall'odiato nemico americano. E lo stesso Pioniere, lavorando con i fumetti per comunicare con i ragazzi, ebbe anche dei problemi importanti col partito. Ricordiamo tra tutti la nota lettera di Nilde Iotti che si scagliò contro il giornaletto. Ma da questa Italia del dopoguerra ci spostiamo a un recentissimo passato, perché se, ahimè, da pochi giorni chiusa la mostra Iacovitti, il teatrino perpetuo, forse l'esposizione più importante tra le tante iniziative che Bibol Bull quest'anno ci ha regalato a cavallo delle feste natalizie. Dunque Iacovitti, teatrino perpetuo, un omaggio del ventennale della scomparsa, con una grande mostra promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna, Ravenna e Unicredit. Per allora tornare su questo personaggio, riascoltiamo le parole raccolte da Michele Pompei con uno dei suoi ospiti in questa Nina Web Radio, Gustavo Fujiko, che appunto tratteggia la grandezza del disegnatore che lavorò prima nel Vittorioso e più avanti nel Corriere dei Piccoli, salvo poi approdare al mitico diario Vitte. Ascoltiamolo. Oh, tu prendi male. La voce che vi faccio ascoltare, che ascoltiamo insieme, è quella del nostro e vostro Andrea Plazzi per Nino Web Radio Fumetti, al quale io do il buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Andrea. Ciao Michele, un saluto a tutti. E allora lascio immediatamente a te la parola, prego. Allora, cosa c'è questa settimana? Tante cose, ma dobbiamo ricordare un festival a Bologna, ha una tradizione ormai ultra decennale, direi che vado a memoria, c'è l'undicesima edizione, si chiama Bill Bol Bull BBB per gli amici, BBB 17. Diciamo che il festival ha una sua cifra molto caratteristica, molto particolare, si è affermato con un ottimo successo ed è noto per un suo approccio originale al fumetto, a volte anche di ricerca, certamente ricercato e sofisticato, senza perdere d'occhio, soprattutto sotto forma di grandi mostre, il grande fumetto anche classico italiano e comunque rivolto a un grande pubblico, comunque ai grandissimi autori del passato. Ricordiamo alcune mostre, alcune effettivamente, va detto, memorabili, come quella di Magnus, che esordì, con cui il festival esordì nel 2007, quella di Gianni De Luca, di Toppi, di Giardino, quindi grandissimi nomi popolari, nel senso di molto noti, ma che sfioravano, come nel caso di De Luca, la vera e propria sperimentazione grafica. Il grande nome di quest'anno, la mostra di Bilbo Bull, è quella di Benito Iacovitti. Qui dovrei smettere di parlare, perché se comincio non so quando potrei finire, è quasi impossibile condensare in tempi radiofonici una carriera, un personaggio, un eclettismo, una originalità, una irripetibilità come quella di Iacovitti, che è un autore, per cominciare, dico la cosa più ovvia, sacrosanta e importante, ma veramente banale, graficamente irripetibile, senza precedenti, senza eredi, è una di quelle discontinuità di quei tratti, di quegli stili assolutamente unici, come lo era Magnus. Letteralmente, anche guardando i lavori più giovanili, e quelli che lui indicava come le sue passioni, i suoi modelli, semplicemente non si capisce da dove esca uno stile del genere, che non ha alcun antecedente nella tradizione italiana e che è rimasto assolutamente irripetibile. Devo dire che ho visto in passato, non spessissimo, non è un'occasione così frequente, originale di Iacovitti. È un'esperienza per chiunque apprezzi il disegno, intenda un po' di disegno, semplicemente sia curioso, perché la sua stupefacente tecnica, tra le altre cose, una dei tanti aspetti completamente originali, raramente è stata valorizzata dalla stampa. È troppo sofisticata, troppo complessa, un lavoro di pennino e di dettaglio che in tantissime edizioni a volte povere o comunque non all'altezza di tanta perizia grafica andava persa. Quindi Iacovitti, questo vero e proprio gigante, viene da pensare anche un po' alle parole che stavi dicendo a proposito appunto di come si è originato questo stile, quando a volte si scopre un'antica civiltà che produce dei manufatti artistici e non si capisce come siano nati, no? A quale altra civiltà magari si siano agganciati o abbiano fatto riferimento, e tra l'altro quelle dopo sembra non avere conosciuto la prima. Ecco, è quasi un lavoro d'archeologi guardare queste tavole. Assolutamente, e poi ripeto, mi limito agli aspetti più importanti, ma ovvi, perché evidenti dalle tavole, ma se volessimo entrare in dettaglio di come Iacovitti, narratore a fumetti, l'autore geniale che ha inventato una forma di surrealtà e di nonsense tutto italiano, che ha come marchio di fabbrica i famosi salami con le gambe che spingono le cariole, le lische di pesce, i vermoni col cappello che interferiscono e diventano parte di narrazioni surreali di Cocco Bill, di Zorri Kid, e qui si apre ovviamente tutta una trafila di personaggi indimenticabili. È proprio un autore di una con uno spessore, una dimensione rarissima, è uno dei grandi unici del nostro fumetto. Cocco Bill, ce n'è uno solo al mondo, quanto bene, camomille, fate più di mille, Cocco Bill. Cocco Bill, Cocco Bill, ce n'è uno solo al mondo, quando spara non si sbaglia, sembra una mitraglia, Cocco Bill. dove l'hanno non si sa, una casa non ce l'ha, gira il mondo col cavallo e 200 rivoltelle per cacciare i banditi e difendere i deboli, il più grande dei cowboys è Coco Bill. Coco Bill, Coco Bill, ce n'è uno solo al mondo, quando beve camomille fanno più di mille. Coco Bill, Coco Bill, Coco Bill, ce n'è uno solo al mondo, quando spara non si sbaglia, sembra una mitraglia. Coco Bill. Quando entra in un salon, ne sistema più di uno, gioca a fare lo sceriffo, dei nemici si fa un baffo, non c'è niente da fare, Coco Bill è invincibile, il più grande dei cowboys è Coco Bill. Coco Bill, Coco Bill, ce n'è uno solo al mondo, quando deve camomille fanno più di mille. Coco Bill, Coco Bill, Coco Bill, ce n'è uno solo al mondo, quando deve camomille fanno più di mille. Coco Bill, Coco Bill, Coco Bill, sempre la Italia. Coco Bill. E questa era la ballata del 64 di Coco Bill, cantata dall'allora Remo Germani, dopo l'intervento di Piazza, che in qualche modo ha illustrato la figura di Coco Bill, forse così facendo un po' rabbia chi per disattenzione o perché era fuori Bologna non ha potuto vedere questa bella mostra chiusa da qualche giorno, ma comunque importante perché rievoca una figura davvero eccezionale nell'ambito del fumetto italiano. Noi chiudiamo qua la trasmissione dandovi appuntamento alla prossima puntata, dove tra l'altro ascolteremo per l'appunto la seconda parte dell'intervista di Morena Moretti a Giulia Maffai. Dunque, risentirci a domenica prossima, ciao. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a sinistra, il pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare su?